24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giuseppe Sala, 56 anni, milanese bocconiano, sposato senza figli. Entra in Pirelli e fa carriera. Nel 2006 è direttore generale di Telecom Italia e presidente del gruppo A2A. Tifoso dell'Inter, gioca a calcio e scia, grande lettore nel tempo libero. La sua passione è la vela. In vela ha fatto la traversata dell'Atlantico. Dal gennaio 2009 passa al settore pubblico come direttore generale del Comune di Milano. Dal maggio 2013 è commissario unico per l'Expo. L'8 maggio scorso doveva essere qui a Mix24 a raccontarci tutto sull'Expo, ma è capitata l'apocalisse. 200 agenti con un blitz perquisiscono e arrestano uomini dell'Expo. Sembra l'inizio della fine. Dottor Sala, l'ha pensato, è finita? No, penso di no, perché è una storia talmente lunga quella dell'Expo, 8 anni, si figuri in Italia quanti ne succedono. Senta, ma quel giorno si è chiesto, ho sbagliato io da qualche parte? Ma certo, la conclusione è stata che ho sbagliato nel non leggere bene l'animo umano, non facile. Senta, più facile attraversare in barca l'Atlantico? Più facile, se si hanno un po' di doti che aiutano. Senta, facciamo un passo indietro. Quando la Letizia Moratti le ha proposto questa avventura che doveva essere il fiore, dovrebbe essere il fiore all'occhiello per l'Italia, si aspettava un percorso così accidentato? Onestamente sì, erano 25 anni che lavoravo in realtà complessa, quindi me lo aspettavo. Ah. Senta, e che cosa l'ha spinta ad accettare? Il gusto della sfida? Un treno che passa, una cosa straordinaria, una cosa che racconti poi ai nipoti se ce li hai, o una cosa particolare che non si poteva perdere. Senta, oggi mancano 228 giorni all'Expo. Che cosa non ci sarà sicuramente di quello che sperava? Ma speravo in un, ed è un po' il mio motivo di arrabbiatura, speravo in una maggior cattiveria nell'affrontare la questione turistica da parte del nostro paese. Siamo ancora indietro. Ecco, e che cosa la riempie di soddisfazione invece, per dare un po' d'ottimismo? Mi riempie di soddisfazione il fatto che i paesi ci sono, avremo un record di padiglioni. Ne parleremo. E vendiamo un sacco di biglietti. Senta, l'albero della vita, però, che dovrebbe essere la nostra Tour Eiffel, cioè il simbolo dell'Expo, è al centro di una discussione infinita. Anche Cantone, commissario anticorruzione, ha dubbi, incertezze sulle modalità di realizzazione. Anche lei? Io ho i dubbi sulla questione tempi e sto cercando di farmi chiarire. Cantone sulle procedure. Ci stiamo mettendo insieme per capire come fare. Insomma, sta Tour Eiffel non ce l'avremo? No, possiamo avercela, però i tempi passano e quindi stiamo chiedendo al presidente Bracco di avere certezza che si può farlo. Ma ci vuole una gara pubblica per farlo? Certo, questo è indispensabile. Quindi ci sarà questa gara, poi se ne parlerà, insomma, vedremo. No, quest'albero della vita dobbiamo farlo, però con certe garanzie. Senta, questo è uno dei punti di scontro fra lei e la dottoressa Bracco, perché si sa che non è che ci sia proprio buon sangue. No, ma guarda, io sono il commissario dell'Expo, io non voglio andare d'accordo con nessuno dei rappresentanti dei paesi, cioè non voglio essere amico di nessuno, io voglio che le cose, ogni paese le facciano. Senta, e perché non andate d'accordo con la Bracco? No, non è che non andiamo d'accordo, ripeto. Ma ripeto, per me la questione dei tempi è fondamentale, quindi io vorrei maggiore attenzione ai tempi perché i giorni passano inesorabilmente. Insomma, l'albero della vita ci sarà o no? Lo sapremo fra 10 giorni massimo. Accidenti, prima dovevamo saperlo la settimana scorsa. Senta, il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone non è una figura che si poteva prevedere già fin dall'inizio, visto che stiamo parlando di velocità che non c'è? Guardi, ci sono una serie di mie dichiarazioni, chiedo aiuto da tempo perché l'area ricoperta da Cantone è fondamentale, non bastano i protocolli, serve persone esperte. E quindi lei l'ha chiesta e non gliela davano, così? Ma fondamentalmente sì, e sono ben contento invece. Ma che Cantone che non gliela dava? Facciamo nomi e cognomi. Oggi sul Corriere c'è un bellissimo articolo di Galli della Loggia che dice: facciamo nomi e cognomi. È difficile fare nomi e cognomi su. È il governo che deve decidere e nominare un ruolo del genere. Per cui di base è vero, noi l'abbiamo chiesto per molto tempo, adesso per fortuna è arrivato. Senta, dopo gli scandali, gli arresti, l'arrivo di Cantone, tutto il resto, possiamo dire che l'Expo adesso sarà una manifestazione mafia free? Ma a questo punto penso di sì. Noi non c'è alcun atto che facciamo senza l'avallo di Cantone, e mi pare che Cantone e i suoi uomini, la Guardia di Finanza, sono molto attenti. Ecco, ma anche se sarà necessario affidare molti appalti diretti senza gara? Questa è una leggenda metropolitana. Non è vero? No, assolutamente. Ah. Probabilmente l'unico caso sarà sulla ristorazione, ma poi spiegheremo perché. Va bene, parliamo. Ecco, l'arrivo di Cantone ha prodotto questo meccanismo, ha prodotto rallentamenti oppure ha velocizzato il lavoro? Necessariamente Cantone si piglia del tempo, ma sa che che il tempo è tiranno e quindi si piglia una settimana. Non possiamo dire che è un problema dei tempi con Cantone. Senta, ma è vero che fino ad oggi nessun paese ha firmato il protocollo di legalità istituito? No, l'hanno firmato 5-6 paesi. È chiaro che 5-6 su quanti? 5-6 su 50, quindi certo. Pochini. Ma la loro preoccupazione è la preoccupazione dei tempi, cioè il protocollo è straordinario ma induce a tempi delicatissimi. In questo gioco Insomma, qui c'è sto cerino che gira. No, gira, però sa, quando si arrivano agli ultimi mesi l'affanno sui tempi c'è. Noi siamo partiti prima, potevamo averne meno. Ora i paesi sentono veramente le ore che passano. Senta, lei ha detto che fin qui la parte turistica è stata trascurata. A settembre sarebbe stato il momento del lancio. Che cosa? Siamo a settembre, metà. No, è questo un po' il mio elemento di delusione. L'Expo può fare tante cose, ma togliamoci dalla testa che l'Expo vada a agire su 1000 settori industriali. L'Expo è alimentazione e quindi il settore dell'agrofood e turismo. Sul turismo, cioè, non facciamoci tanta illusione sull'Expo, non creiamola di aspettative, non è la panacea di tutti i mali dell'Italia. No, ma sull'agrofood e sul turismo sì, e sono due settori veramente fondamentali. Senta, ma i bronzi di Riace, visto che parliamo di turismo, intanto a Milano non sarebbe stata un'attrazione sicura averli lì? Sono una cosa meravigliosa, sì o no? Ah, qui sulle opinioni sono tante. La mia opinione è che sarebbe stata un'ottima opportunità. La mia opinione è anche che l'abbiamo gestita male, cioè non si può fare un annuncio senza avere contatto. Gestita male, ma alla fine sarebbe meglio che venissero. Sarebbe meglio che venissero. 840 euro al giorno incassano a Reggio Calabria. Pochi. Senta, Renzi però dice che devono star lì e che voi porterete tutti a Reggio Calabria. Beh, non dobbiamo essere d'accordo su tutto, però portare tutti a Reggio Calabria sarà un po' difficile. Un po' più degli 840 euro. Con questo euro ci proveremo, certo. Senta, quindi vabbè, insomma, quindi Renzi, lei d'accordo fino a un certo punto su questo punto? Direi di no. Sul tema del bronzi no, sulla maggior parte delle altre cose per fortuna sì, essendo il mio principale azionista. Meglio andare d'accordo con gli azionisti. Senta, sull'ipotesi dei visitatori si è detto di tutto. Mille stime, 20 milioni, 15 milioni, 12 milioni, 10 milioni, mi dice quale sarebbe la cifra di cui sarebbe soddisfatto? Altra leggenda metropolitana, in tutti i documenti ufficiali si è sempre parlato di 20 milioni, mi posso spingere a dire che garantisco che arriveranno 20 milioni di visitatori, perché ad oggi, ripeto, abbiamo venduto 5 milioni e 400 mila biglietti, io sono molto confidente. È tanto, a 8 mesi dalla partenza. No, ma in proporzione con gli altri Expo. È molto di più, ma il problema e diciamo l'opportunità è che noi stiamo vendendo l'Expo e il nostro paese, quindi guarda, quando noi abbiamo detto vogliamo 1 milione di cinesi ci prendevano per pazzi, noi ne faremo 1,5 milioni almeno, perché i cinesi amano l'Italia, andiamo via noi insomma per farli entrare a Milano. Forse senta, quanti paesi oggi hanno comprato lo stand e verranno sicuramente? Allora, i paesi comprano un'area e si costruiscono, comunque diciamo certamente 53, forse 55. Il record precedente era 42. Polverizziamo tutti i record. Bene. Senta, l'effetto sanzioni, però, in questo scontro Europa-Russia, potrebbe farsi sentire in un settore delicato come l'alimentazione? Già nelle esportazioni si sente. No, oggi noi non abbiamo segnali. Abbiamo un segnale invece di attenzione sull'Ucraina, che probabilmente non verrà. Mentre tutti ci terremmo che venisse. Senta, a proposito della polemica, visto che alimentare, sulle OGM, avete scelto come ambasciatore Vandana Shiva. Non è una scelta ideologica molto orientata? No, guardi, noi di ambasciatori ne abbiamo tanti. Il tema è una di quelle. Sì, ma l'Expo è una piattaforma aperta dove c'è chi dirà che sarà a favore, c'è chi dirà che sarà contro. Senta, c'è il rischio che i paesi legati alla Russia, però all'ultimo momento, se questa tensione cresce, dicano no? Non lo so, perché i padiglioni se li stanno facendo oggi, per cui immagino che sia molto difficile. Che spendono soldi, fanno i padiglioni e poi non vengono. Senta, a proposito dei paesi presenti, lei ha scritto alla Serbia dicendo che pagherete voi 500.000 euro del costo dell'affitto del terreno per costruire il padiglione. Perché? Pagate voi? In effetti nelle regole dell'Expo ha tutta una serie di paesi minori o in difficoltà paga il paese ospitante. E oltre la Serbia chi pagherà? Ah, beh, per 70 paesi in realtà. Ma come, se vengono 50? No, 50 sono 55 sono quelli che si fanno il loro padiglione. Per il resto paghiamo noi lo spazio. È nelle regole delle sponsor. Okay. Senta, settembre ed è nel nostro budget. Settembre 2014, cioè oggi, era la data di fine lavori per molti cantieri. Quanti sono stati consegnati? No, ma sulla piastra, che è quello fondamentale, siamo l'80%. Abbiamo 3-4 mesi di ritardo dovute fondamentalmente al maltempo e a qualche guaietto giudiziario. Ecco, diciamo. Senta, a proposito di cantieri, quello della Romonza, per esempio, che è considerato concretamente indispensabile, a che punto è? Finalmente abbiamo buone notizie sulla parte finale, che era quella critica. Abbiamo avuto conferma. Farò un'ispezione settimana prossima, ma abbiamo avuto conferma che ci sarà. Sarà inaugurato. Ci sarà. Abbiamo di nuovo un tracciato diverso, anche per dar meno fastidio alla cittadinanza in alcuni paesi vicini, ma ci sarà. Senta, ma è vero che per accelerare le procedure dei lavori adesso lei deve utilizzare molto di più i suoi poteri di commissario? Io i poteri li ho utilizzati molto, ma sono sempre stati relativi al fatto di anticipare i tempi piuttosto che di non fare gara. Non è mai successo che ho usato i miei poteri per non fare delle gare. Ne ha parlato prima lei, invece per la ristorazione la gara è andata deserta 2 volte, ma come mai? Abbiamo sbagliato noi, abbiamo chiesto troppo alle società che potevano partecipare e queste ci ha risposto picche. Ora, e adesso sarà assegnata per chiamata diretta? Sì, ma non ad aziende che stanno arrivando all'ultimo momento, parleremo con le aziende che comunque avevano manifestato interesse e poi non hanno... Cioè abbassate le richieste? Abbassiamo le richieste, ma in realtà abbassiamo quello che chiediamo, noi non ci mettiamo soldi. No, ho capito, certo, sì. Lei che è appassionato di cucina, l'abbiamo detto, chi vorrebbe? C'ha un suo feeling? Nei grandi chef? Sì. Ma ce ne sono tanti, però guardi... Ce n'avrà uno che preferisce? Bottura, devo dire che con Bottura sono molto amico, lo stimo molto. Senta, ma lei cucina? No, purtroppo mangio. Poco però, mangio vedo poco, molto magro, in gran forma. Mangio tutto e poco, faccio bene il caffè. Ah sì, che cosa meglio? Quindi nessuna, niente, non cucina proprio nulla? Non cucino. Speciale. Senta, nella ristorazione però, nelle pulizie, i rischi di infiltrazione... sono molto alti e la chiamata diretta, questo rischio comunque l'accentua. No, in questo abbiamo un cantone molto vicino, nel senso che stiamo lavorando con lui e ci aiuterà ad evitare problemi del genere. Perché in realtà si rischia molto di essere condizionati quando si è in ritardo. Sì, ecco, la cosa pazzesca è che qualcuno teorizza che noi abbiamo volutamente sbagliato le gare per adesso poter dare a chi vogliamo. Non è così, ovviamente. Non è così. Senta, ma... Lei ha detto, pensiamo che la squadra di 5 persone di coordinata da Cantone opererà, l'ha detto a giugno, se ci sono e operano. Sì, sì, è la sua squadra, lavora in parte a Roma, in parte a Milano, ci riuniamo settimanalmente. Senta, lei, secondo molti, e il suo curriculum lo dimostra, è un manager efficiente, schivo, concreto. L'Expo però l'ha molto esposta mediaticamente, come era naturale. È difficile gestire questa emozione supplementare? No, richiede tempo però, tempo, perché obiettivamente con i media è un lavoro. E l'Expo nel bene e nel male è molto mediatico. Per esempio le satire di Crozza la diverto, senta qua. Guarda che bella che è la Tour Eiffel, guarda che bella, sarà poco bella la Tour Eiffel. L'hanno costruita a Parigi per l'Expo Universale del 1889. Da più di 100 anni è il simbolo di Parigi. È l'opera più romantica del mondo, dai, è un'opera straordinaria, è la cosa più bella di tutte. E la cosa più straordinaria di tutte è che quando hanno inaugurato l'Expo era addirittura finita. Dunque, per l'Expo la possono fare solo se da oggi assumono 100.000 schiavi etiopi in preda alla cocaina che non dormono mai. Passami quel mattone, cazzo! Passami il mattone, cazzo! Il mattone! Il mattone! Dov'è il mattone? La fa ridere. No, rido amaro, dopodiché Crozza mi piace. Ci ho parlato, lui non crede molto nell'Expo. Guardi, la mia soddisfazione alla fine sarà di far ricredere qualcuno. Spero anche buon Crozza. Sì. Senta, lei comunque ha investito un budget importante in comunicazione. Quanto ha investito? Ma alla fine investiremo circa il 10% di quanto dobbiamo vendere in biglietti. Dobbiamo vendere per mezzo miliardo, investiremo 50 milioni. Tanto, è soddisfatto per ora del ritorno di quelli che ha investito? No? Ma abbastanza, è chiaro che in Italia abbiamo molto lavorato sulla RAI, ecco, dalla RAI mi aspetto onestamente di più. Ecco, devono fare di più, ma è logico che la RAI sia il nostro veicolo. Tutti qua siamo a dire la RAI è il paese, lo è. Ma mi aspetto di più. Ecco, ma Cosa deve fare con i soldi che gli ha dato in convenzione? Quanto gli ha dato? 6 milioni? Sì, 5-6 milioni. Ah. E magari continueremo poi anche nel semestre, certo. No? Per cui c'è la cerimonia d'apertura. Vabbè, e quindi lei si aspetta di più? Sì, mi aspetto che riescano veramente aiutarci a spiegare cos'è l'Expo. L'Expo non è le Olimpiadi, si spiega da solo. Certo. È un po' complesso. Senta, ma la sede però è a Roma, perché Roma è capo mundi. Questo sono un po' problemi loro. A me interessa che ci passino nei programmi giusti, che passino il nostro messaggio. Ma lei dice per ora non è soddisfatta, deve fare di più. No, devono fare di più. Poi hanno fatto molto, ma sicuramente per questi soldi mi aspetto di più. Senta, ma l'Expo deve essere comunicata agli italiani o al mondo? Prima al mondo, e da qua appunto il fatto che abbiamo venduto più di 5 milioni di biglietti. Ora, negli ultimi 6 mesi, è il momento degli italiani. Ecco. Senta, molti pensano che nel bene e nel male comunque l'Expo sarà una metafora del paese. Cioè, va bene, il paese è ripartito. Va male, siamo alla fine. Si sente il paese dietro, lei? Ritorno un po' al tema di prima. Io vedo che il mondo dell'agrofood si sta muovendo bene, non sufficientemente il tema del turismo. Insomma, noi abbiamo veramente milioni di persone, di stranieri disponibili a venire, in un momento in cui cambia radicalmente la logica del turismo. Vabbè, ma bisogna andare in giro per il mondo a venderlo, lo strutturismo. Assolutamente, ma bisogna che qua si preparino dei pacchetti che non siano i soldi. Cioè, se noi pensiamo che usiamo l'Expo per far venire la gente a Firenze, Venezia e Roma, abbiamo sbagliato. Dobbiamo usare l'Expo per farli venire altrove. È un grandissimo test. Per farli venire a Milano. No, per farli venire nell'Italia minore, che piace oltre a Milano. Milano ci arriveranno per definizione. Sì. Ecco, non siamo pronti, non siamo ancora pronti. Ma chi è che non è pronto? Chi non fa la sua parte? Diciamolo, perché poi dopo è lei che non fa la sua parte, se alla fine non funziona. No, Ministero e Regioni devono essere le parti attive. Stiamo lavorando abbastanza bene col Ministero. Ministero di Franceschini. E con le Regioni, ma... Il punto è, non si vede ancora la costruzione di programmi adatti che devono essere offerta e come ce li portiamo. Ma Renzi cosa vorrebbe che facesse per lei? Cosa si aspetta? Letta era innamorato dell'Expo. Renzi è innamorato? Ma Renzi mi pare a questo punto molto convinto. E allora ha avuto cosa probabilmente si aspetta dubbi che iniziali, ma adesso lo vedo molto convinto. E adesso cosa si aspetta? Ecco, questo, che aiuti veramente a... far capire che il turismo, noi continuiamo a dire da decenni, io e lei, che abbiamo qualche anno, il turismo, il petrolio d'Italia, ma ecco, stiamo un po' perdendo questa occasione. Senta, ma in giro vede più tifosi o più gufi? Nelle ultime settimane, guardi, poi io ho molto il polso di Milano, certo. Nelle ultime settimane comincio a vedere molti più supporto. Ma quanti posti di lavoro creerà l'Expo? Diretti, quanta gente lavorerà sul cantiere? 10.000 persone ogni giorno. Il problema è la difficile misurazione dell'indotto. Perché appunto la Bocconi aveva detto 200.000 fra diretti e indiretti. E si è parlato di grandi numeri. Il punto è, quanti aggiungeranno nella ristorazione, nel commercio, quanti tassisti, quanti... È difficile misurarlo, è difficile. Senta, i sindacati dicono che se va bene saranno 15.000 posti di lavoro. I sindacati sono... hanno molte facce. I sindacati locali con cui lavoriamo mi pare che siano molto convinti con noi che stiamo facendo. Quindi è un problema di sindacato nazionale? No, è un problema di comprensione di nuovo di cos'è l'Expo. Lo so, siamo qui apposta. Senta, ma in ogni caso l'Expo doveva produrre dei modelli sperimentali di contratti di lavoro. Adesso c'è Job Act in discussione, si discute molto sulla riforma del mercato del lavoro. Dice, all'Expo si faranno degli esperimenti replicabili nell'azienda, è così? Allora, noi abbiamo un contratto che è estremamente flessibile per assumere 800 giovani, tra parentesi, dato bello e drammatico, abbiamo ricevuto più di 100.000 curriculum. Anche lì, ancora all'epoca del Ministero Giovannini, si pensava di esportare quel modello in Italia. Mi fa un esempio di innovazione contrattuale? Per esempio, oggi si possono assumere solo un 5% di stagisti nelle aziende e noi non abbiamo limiti. Senta, sempre a Bocconi ha detto che l'Expo produrrà un indotto di 25 miliardi di euro, ma mi sembra un numero di fantascienza. E ripeto, difficili misurabilità. Sì, però l'ha detto a Bocconi, lei è bocconiano, quindi o li difende o... Ma i professori universitari sbagliano per definizione. Ah, questa è una notizia, va bene. Senta, ma che cosa se ne farà dell'Expo dopo l'Expo? Ecco, qui c'è il tema dell'area, è un tema squisitamente politico. Per cui c'è questo bando aperto, dobbiamo aspettare 2-3 mesi a dare una risposta. Ma lei cosa pensa che potrebbe capitare? Io credo nell'ipotesi di una soluzione un po' mista. Ci sta lo stadio, ma ci sta uno spazio per un grande mercato agroalimentare, ci sta uno spazio un po' per la tecnologia, difficile su un'area così grande da 1 milione di metri quadri trovare un'unica vocazione. Certo. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei ha una passione per la vela, l'abbiamo detto, la vela e il mare. Che cosa le hanno insegnato, che le è servito nella sua esperienza di capo dell'Expo? Due cose fondamentali. Una, a non aver paura, perché in mare a volte hai paura e quindi la devi vincere. La seconda è il rispetto dei tempi. Non si può ottenere tutto subito. La vela è lenta. Devi avere la pazienza di sapere che certe cose te le tieni lì nella testa, non le puoi ottenere, ma pian piano le costruisci. Senta, le faccio un'ultimissima. All'Expo, che è universale, ci sarà anche una moschea? No, lo escludo categoricamente, ma non perché abbia nulla contrario, ma il nostro tema è quello dell'alimentazione, quindi la moschea la faranno probabilmente a Milano. Mix 24 9:35, 38 secondi, 800 24 0024, il numero verde 349-238-6666, l'SMS. Allora, finalmente ritrovati, siamo qua insieme. Pietrangelo, tu che titolo faresti per l'intervista del faccia a faccia di Sala? L'Expo tardo ma arrivo. Carino. In rima. E tu, Mario? Lo faccio in sardo. Insomma, lo dice la Brigata Sassari, Forza Varis, tutti insieme. Bene, se avete delle opinioni, avete delle osservazioni da fare sull'Expo o avete dei consigli da dare a Sala, noi le gireremo. Potete scriverci o telefonarci, naturalmente. Cazzona. Traballerà il palcoscenico, si tingerà di un colore panico, scatenerà un ritmo torrido, debutterà la danza della vanità. Ci mancava, se abbiamo cominciato con Conte, come mai? È perché io mi permetto di suggerire 5 minuti di tango, però no, 5 minuti, ma che dico, 2 minuti e mezzo di tango e la danza delle vanità, dove sarà difficile capire dove mettere le mani, dove mettere il sorriso, perché in assenza di danzatrice il danzatore non potrà che risolversi in un goffo timido gesto nello specchio, come dice Paolo Conte, panico, e tutto in omaggio al dio Pan. Abbiamo ricominciato, un ritmo torrido. Vai. No, volevo sentire un po' la musica. Vabbè, dai, un po' di bolle. Arrivavamo alle bolle. Vabbè, che facciamo? Me ne lanci? No, dai, va minori. Bene, cosa bolle in pentola all'inizio? Il la lancio prima puntata, ufficiale, vai! Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare i nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Siamo arrivati, È il grande William Wallace, scozzese. Ci siamo, giovedì. 18 settembre, referendum sull'indipendenza della Scozia, che non è l'autonomia, è qualcosa di più. È l'indipendenza, cioè gli scozzesi devono decidere, una domanda semplice, due opzioni, sì o no. Vogliono lasciare un'unione che dura da 300 anni, dall'Union Act del 1707, o continuare in quello che è diventato un po' lo slogan invece del fronte unionista, cioè better together, no? Meglio tutti insieme. Questi devono, io scommetto, devono decidere. Che non, tu non, cosa non, scommetti? Io scommetto che non ci sarà la scissione. Tu scommetti che non ci sarà la scissione. E tu, Pietrangelo? Sì o no, secondo te? Beh, se Sean Connery dice bisogna andarsene via, se ne andranno via e la Scozia tornerà libera. Adesso qua vai con la tua bolla. Ma io continuo, ti dico che intanto queste sono cornamuse, quindi abbiamo un sottofondo musicale adeguato. Io vi dico che ci sono degli interrogativi da sciogliere. Per esempio, Scozia indipendente significa che avranno bilanci propri. Benissimo. Banca centrale? la Banca d'Inghilterra? Allora chi paga nel caso di conti che vanno male? Insomma, lo scenario... Vabbè, ci sono tanti problemi, diciamo. Sì, però insomma, lo scenario che si prospetta è che non è possibile che gli scozzesi spendono... anche se la tradizione dice che sono avari, gli inglesi pagano. Questo non è possibile. Ho visto un po' di scenari economici. Per essere, diciamo, gradita dagli investitori, la Scozia dovrebbe creare una base monetaria fortissima, dunque accumulare riserve di sterline. Senti, intanto, scusa, dimmi. Intanto Gaetano ci dice, visto il tema del cibo all'Expo, sarebbe una bella cosa che alla fine l'area venga ridestinata a coltivazioni agricole. Enrico dalla Grecia ci dice, a proposito delle previsioni della Bocconi, passerà alla Bocconi come consulente. Ce ne vuole qualcuno, figurati, ce ne vuole ancora qualcuno. No, ce ne vuole qualcuno anche in Scozia, secondo me, di consulente. Andiamo in Russia. Vuoi andare in Russia? Sì, sì, ci manca la Russia. Guarda che... Ops! Allora, Kerry e Lavrov si incontrano a Parigi oggi, c'è una conferenza sull'Iraq, altro punto che tu sai, noi abbiamo seguito sempre con grande attenzione. Il cessate il fuoco tiene relativamente, però gli ucraini sembrano incapaci in realtà di governare la situazione. E Petro Poroshenko, il presidente, non è adeguato, questo si vede. E l'Economist qualche giorno fa ha scritto, questa è la cosa interessante, Putin ha vinto la guerra in Ucraina. E io penso che l'abbia vinta, non so cosa ne pensi tu e cosa ne pensa Pietrangelo. Sì, anch'io penso che l'ha vinta. Penso che non ha vinto solo quella, penso che ne sta vincendo parecchie, ma avremo modo di parlarne tanto. Bene, tanto siamo qua, come si può dirsi. Bene, e allora la nostra quota rosa. Eccomi, ciao, come state? Bene. Non vedevo l'ora di dirvi una cosa. Ho letto l'intervista di Rosy Bindi, quella di un po' di giorni fa, il presidente della commissione parlamentare antimafia, che dice lei non sa nulla di mafia, presente? E lei spiegava che le ministre di questo governo sono state scelte non perché brave, proprio lei lo diceva, ma perché giovani e belle. Parte che mi è venuta una domanda, cioè, ma la Bindi includeva anche il topless della Giannini in tutta questa discussione? Secondo me, E mi ha fatto venire in mente, Mario, ascolta bene, la scena del una scena del film La morte ti fa bella. Ma tu non hai un po' di pietà, non te ne frega niente, tu stai lì con la tua pelle di 22enne e due tette dure come sassi e mi ridi in faccia. La volete risentire? Risenti, dai, che non è male. Ma tu non hai un po' di pietà, non te ne frega niente. Tu stai lì con la tua pelle di 22enne e due tette dure come sassi e mi ridi in faccia. Sono problemi grossi, però dico, se non rottamiamo l'ascia dell'invidia, non andiamo da nessuna parte. Allora, Giovanni, per ricominciare con il piede giusto, quest'anno ho chiamato Cristina Rossello, che è un avvocato di successo, presidente del progetto Donne Futuro, e questa intervista la dedico a tutte le ragazze e le donne che invece vogliono creare una rete rosa. Avvocato Rossello, oggi siamo libere, siamo padrone della nostra vita, però guadagniamo meno degli uomini. Perché? E tanto c'è un retaggio culturale per cui sembra che la donna sia meno disponibile sotto il profilo degli orari. E quindi per questo c'è un parametro che dovrebbe essere oggettivo. Nella realtà ci sono dei parametri soggettivi per cui si pensa, quando si sale al vertice, che comunque si gratifichi la donna, e quindi già quello è un premio, anche perché noi non abbiamo ancora la maturità del saper chiedere. Infatti un grande manager ha detto che quando una donna chiede una promozione è almeno un anno che ci pensa. Condivido, ha ragione Sara, è così, dobbiamo essere più veloci perché questo è un po' il nostro problema, e poi meno rimuginare. Poi tenga conto che questo è anche proprio un problema femminile, il fatto di dare e poi aspettare che questo venga riconosciuto. Lei dice che le donne devono crescere professionalmente però con dei modelli di leadership femminili. E il suo qual è stato? Posso dirle che la prima leader che ho preso ad esempio è stata mia madre. Però e perché? Tutto, era professionale in tutti i suoi atteggiamenti. La mamma è il primo esempio di leadership femminile che noi abbiamo. Senta, ma che cosa vuol dire esattamente la leadership al femminile? Cioè, in che modo siamo capi in modo diverso da un uomo? Ma guardi, io le dico una cosa, lei una bella forma di leadership ce l'ha avuta nel momento in cui ha deciso di farmi un'intervista? Lo sa quante sue colleghe conoscono questa notizia e non pensano di esercitare una leadership per aiutare altre donne? Come avete selezionato le 45 ragazze che oggi fanno parte proprio del progetto Donne Futuro? Guardi, noi abbiamo chiesto alle scuole, si va nel territorio, si parla con le autorità del luogo, si chiede quali sono i punti di eccellenza. Quindi diciamo che sì, se una ragazza ci sta ascoltando, cosa deve fare? Deve coinvolgere prima di tutto il suo sindaco, e allora il sindaco si deve un po' motivare e cercare dei progetti di eccellenza femminile per poter proporre a Progetto Donne Futuro di venire a presentarsi. Ad esempio, noi a Roma non siamo mai stati invitati dal sindaco, né di destra né di sinistra, Sara. Quindi né Marino né Alemanno sono sensibili, diciamo. Non hanno progetti da proporre. Diciamo, non hanno questa attenzione, secondo me. Avvocato Rossello, Guerra dice che non è importante dove lavori, ma con chi lavori, è d'accordo? Sa che ha ragione. Vabbè, abbiamo trovato la nostra leader femminile a quota rosa. Eh sì. C'hai una dedica? Sì, ho una canzone per tutti, per iniziare la giornata. No, perché? Perché compie 80 anni la Vanoni. Tanto tu in casa mia, no, non entrerai mai. Tanta gente che ha bisogno di soffrire. Appunto, la Vanoni che compie 80 anni. Andiamo con i salamini. Santi salamini, sacrosanti salamini, sciopero fiscale se si farà il taglio alla sanità. Regione Veneto e Regione Lombardia, per voce dei loro governatori, Zaia e Maroni, annunciano lo sciopero delle tasse. E dice giustamente Zaia, sono le regioni del sud quelle che spendono di più e curano peggio. Ecco, lo sciopero fiscale somiglia un po', ve lo ricordate? Nei libri ovviamente l'abbiamo studiato, lo sciopero del sigaro. Quando i nostri avi si privavano del tabacco per non arricchire lo Stato usurpatore, dovettero mettere l'effigie di Garibaldi per invogliare il consumo del tabacco. Ora io mi chiedo, non possiamo immaginare giustamente che cosa stamperanno, quale faccia useranno sulle siringhe e sulle garze, però forse che il nostro come si chiama il caro leader Matteo Renzi, dopo la scena del gelatino, non si rivolgerà alla dolce Euchessina? Ai bambini buoni la dolce Euchessina, ed Euchessina può essere usata anche dai grandi, regola dolcemente l'organismo, e quando è necessario la una pastiglia a te, due invece a me. La dolce Euchessina si prende la sera. Euchessina regola dolcemente il vostro organismo e domani vi sentirete già meglio. Mix 24. Canzoniere. Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il cimitero dei libri dimenticati. Erano i primi giorni dell'estate del 1945. 800240024, chi indovina il titolo del libro? 349-238-6666, no? Sì, però c'è una novità, lo sai cosa si vince? Che cosa si vince? Chi indovina il titolo e l'autore del libro vince 30 secondi di faccia a faccia con Giovanni Minoli. Sì, sì, buonanotte. Io sono d'accordo. Senti, ma una volta alla settimana ci sarà questa idea che non ho capito bene di Sara Tardelli, a posta del cuore. Pietrangelo, dove devono scrivere? Che cosa devono scrivere? Mi sembra. Allora una cosa, no. È la posta del cuore. Devono scrivere a mix24@radio24.it. Allora, si può fare così. Per esempio, i signori possono scrivere a donna Sara. Le signore, le ragazze, possono scrivere invece a Don Pietro. Poi siccome Don Mario è liberale, è occidentale, moderno, capisce tante cose, insomma, Insomma, potrà anche lui. Altre, la posta del cuore, quindi ditelo a noi. Vabbè. Scrivete e mix24@radio24.it. Se non scrivete è uguale, fallo lo capito sta cosa, sta cosa del liberale. No, che no, ma vai. Insomma, vai, tutte le stravaganze le puoi fare tu. Le faccio io. Va bene, ho capito. Che bolla? Facciamo? Bolla. L'ultima bolla veloce. Vabbè, sentite qua. Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Tra qualche secolo, quando la gente vedrà queste riprese, chi vedrà sorridere al bordo dell'inquadratura? Allora, Kevin Spacey, House of Cards, perché lo citiamo? Perché Netflix arriva in Francia. Io vi faccio una domanda al volo. Il grande distributore dei programmi online della TV arriverà anche in Italia o no, secondo te, Giovanni? Penso di sì. Oggi è l'anniversario della morte di Oriana Fallaci. Olè. Noi raccontiamo la storia di Oriana Fallaci in questi giorni. La sua riflessione è tornata al centro del dibattito. Questo è un pezzo che Marina Milone ha tratto dal libro La rabbia e l'orgoglio. Sbaglia chi si consola con le immagini delle donne a Kabul che non portano più il burka e a volto scoperto escono di casa, vanno di nuovo dal dottore, vanno di nuovo a scuola, vanno di nuovo dal parrucchiere. Sbaglia chi si accontenta di vedere i loro mariti che dopo la disfatta dei talebani si levano la barba come dopo la caduta di Mussolini gli italiani si levavano il distintivo fascista. Sbaglia perché la barba ricresce e il burka si rimette. Cristina De Stefano, scrittrice, giornalista, autrice del libro Oriana, una donna. Ecco, sullo scontro di civiltà a cui stiamo assistendo tra Oriente e Occidente si è detto aveva ragione la Fallaci, cioè lei aveva previsto perfettamente quello che si sta realizzando. È vero, è giusto dire così? Oriana è una, non è per niente ideologica nelle sue posizioni, anche su altre cose, molto viscerale, molto istintiva. Sull'Islam ha avuto delle posizioni molto chiare, ha lanciato degli allarmi forti e direi che almeno su due cose, cioè l'aggressività territoriale, chiamiamola così, no? Che è la novità di quest'estate, cioè questo cosiddetto Stato islamico e il rischio della cosiddetta quinta colonna islamica in Europa, sono due allarmi che Oriana aveva posto molto forti nel passato. Era Cristina De Stefano che ha scritto la sua biografia. Dopo il giornale radio, appunto, racconteremo la storia di Oriana Fallaci, ma intanto al telefono abbiamo un canzoniere. Abbiamo Davide Sanna. Davide. Buongiorno. Buongiorno. Cos'era allora? L'ombra del vento. Giusto. Giusto. Allora Sanna, ma da dove telefona lei? Io telefono da Livorno. Da Livorno, ma è sardo? Sono di Ozieri, sì. L'ho sentito subito. E a Livorno che fa? Sono un bancario. Un bancario? E com'è che conosce questo libro? È famoso, è un libro, sono una serie di libri che parlano di una Barcellona molto antica, ai tempi di Francisco Franco. Insomma, una passione per la storia? Sì, è molto bello, ma poi è un libro che possono leggere tutti. Ma bancario dove? Lì a Livorno? Sì. Tutto bene a Livorno? Vediamo, non Va bene, grazie. Salamino! Balzac, firmandosi con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa su Repubblica, dà parola ai malumori sempre più aspri intorno al fortilizio del Cavaliere. Nessuno tra i forzisti ha intenzione di votare Donato Bruno alla Consulta senza l'ordine diretto ed esplicito di Silvio Berlusconi. Insomma, bisogna sapere se è veramente volontà sua del Cavaliere, perché lì ormai non si capisce più niente. Se c'è da parlare delle alleanze, parla Toti. Se c'è da parlare riguardo al partito, c'è Maria Rosaria Rossi. Verdini invece è quello che si occupa di controllare Renzi. La Pascale parla dei diritti civili. Domani, insomma, torna Silvio Berlusconi a Roma. Sempre. Sì, tu appunto, dici. Sì. Dice che tiene fitto il partito. Sì. Ma quando? Pubblicità, no, giornale radio. Pubblicità, non me lo ricordo cosa c'è. Vabbè.